Giuseppe, ma il suo baresone si sente tutto un cazzo immenso. Ogni volta retaita. Un minuto, 2 minuti, 3 minuti. Ma chi vergogna è? Ma mettiamola a suo posto a baresone e ditegli che non ci rompe i coglioni. E si leva dalle palle. All'orario avai saccato tutte cose. Ci vuoi dire, Giuseppe? Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Voglio la roba a casa di Palestro! Secondo il mio parere la Zanzara è un programma razzista, sessista, oltraggioso verso le cariche dello Stato. Boldrini, Boldrini! Fa intervenire personaggi discutibili. Uè, nano di merda! Che offendono e insultano. Quindi non scassate il cazzo e se non vi conviene cambiate stazione, ok? Cambiate stazione, ok? Cambiate stazione, ok? Ma anche dei difetti, tipo David. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. Io sono un populista e me ne vanto, caro Parenzo. Sono un populista e me ne vanto. Non ho detto rappresento il popolo italiano! Ho detto rappresento quello che tanti vorrebbero dire e non hanno la forza di dire! Questo ho detto! Dovete morire tutti all'inferno! Bastardi! Stronzi! Merdosi! Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao! Giuseppe, ciao. Pronto, pronto, prima si parlava di Mussolini. No, no, no, no, no, no, no, no. Che cazzo ridi? Non ho capito, ridi, ride. Ciao, ciao, ciao, mi manda i matti quello lì. Ciao, ciao, ciao, lo ciao. Cascio, lo cascio. Lo cascio il bipolare, no, chiamalo il bipolare adesso, che è l'unico modo no. per capirsi, insomma. Il bipolare. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Bipolare, un matto, bipolare, chiaro esempio. Non lo chiamare dice, matto, uno non lo chiamare matto. Al primo anno di medicina dice, scusi professore, che cos'è il bipolare? Il professore dice, presenta la zanzara. Sì, certo, programma radiofonico, con Luciani, Barenzo, alle 24, 18 e 30, 18 e 34 anzi, fino alle 20 e 50. Ecco appunto, lì c'è un signore, quello è bipolare. Quello che fa, ciao, ciao, ah professore, grazie, ho capito. Allora, intanto, io sono fissato con questa vicenda Weinstein, come sai, cioè è l'unica cosa interessante. Diciamo la verità, sceneggiatori, attori, registi, gente che scopa, attrici che confessano dopo 20 anni, è l'unica cosa interessante degli ultimi anni. Degli ultimi mesi, non c'è niente di più bello. C'è gente che confessa anni dopo la scoperta dell'acqua calda. Per esempio, un tizio, non vi dico nemmeno chi è, che tanto chi se ne frega, uno molto addentro alle cose di Hollywood, dice: tutti sapevano, cazzo, tutti sapevano, oggi fingete sdegno e sorpresa, registi, attori, politici, ma sapevate cosa faceva, perché io c'ero e vi ho visto tutti. Harvey Weinstein era la gallina dalle uova d'oro. La gallina dalle uova d'oro, Cannes, Oscar, Venezia, il Super Bowl, i Caraibi, pagava i giornalisti, metteva il libro paga un sacco di gente, avreste pagato chissà quanto per entrare a uno dei suoi party. Beh, fate schifo, fate schifo, siete ipocriti, tu. Tu ma e i tuoi amici siete chi? Ipocriti. Ma amici di chi? Ma tu lo sai, il tu lo sai ciao, che il ciccione. Ciao, adesso di anche ciao, ciao, ciao. Tu lo ciao. Sai che il ciccione porco, lurido Weinstein, che dal suo punto di vista è il numero uno, perché è chiaro che era il numero uno dal suo punto di vista, però ovviamente era un ciccione, un vecchio porco. Beh, il signore chi se ne frega, sì, un ciccione nel senso ininfluente cos'era? Sì, però non so perché i porconi alla fine sono tutti i personaggi che sono tutti ciccioni, te lo spieghi perché? Cioè sono tutti grassi, enormi, fai come direbbe Fusaro una rappresentazione grottesca e lombrosiana di quello che è lo pseudo reale. Questo tizio aveva pagato le spese legali ai Clinton nella vicenda Levinsky, erano tutti pappe ciccia, amico mio. Ecco il populista, erano tutti d'accordo, tutti, ma tutti di che cosa? Cosa vuol dire? Comunque, d'accordo? Tu saresti contento, saresti contento se tuo padre morisse con il cazzo in mano? Ma che io no? Ma che domanda no, è? No, non è casuale ma questa. Ma che domanda? Cioè, il padre, non, il papà. Non vorrei mai che ciò accadesse, ma in generale. Beh, hai risposto. Il signor Marilyn Manson. Ma mi pare una roba molto. Il signor Marilyn Manson ha detto. Ma che sta gente? Ma tu ti rendi conto che domande fai? Cioè, perché devo parlare del signor Marilyn Manson? È bellissima questa cosa. Mio padre è morto con il cazzo in mano. Ma vabbè, capirà. Ma che notizia è? È bellissima. Ma perché una notizia? Che notizia è? Che discussione vuoi affrontare su questo? Come si fa a intavolare un dibattito su questa cosa qua? Senti. Ma tu ti rendi conto il danno che fai a questo paese ogni sera? No, io continuo a rimanere qui, ma tu fai un danno a questo paese. Ma i cinesi perché dovrebbero investire in Italia? Se uno si informa e dice vediamo chi bu lì cosa succede in Italia e ascolta la radio economica afferente alla Confindustria al Sole 24 Ore e sente questo qui, questo speaker radiofonico che dice che Marilyn Manson, diciamo, sarà un imprenditore americano, non lo so, si chiederanno un investitore, un fondo sovrano, un fondo sovrano sarà, e c'è col pisello, ma che roba è, ma ragazzi, tu distruggi questo paese, allora, davvero, è terribile visto, quello visto che fai. Visto quanto gli piaceva il sesso, direi che se n'è andato alla grande, l'infermiera che lo seguiva mi ha raccontato che puntava il dito e si leggeva il pacco con una mano. Beh, amico mio, ma adesso, il padre però, del signor Marilyn Manson. Ma su questo, come si fa a fare una discussione? Non c'è su discussione, cosa vuoi fare? Perché che non discussione c'è? Ma no. È una porcheria, è una schifezza. È una famiglia di malati. Posso dire che è una famiglia di malati? Certo, non è una famiglia si di può. Gente di gente o è normale? Fammi capire la tua logica. O anche questo è normale? No, fammi capire perché magari è normalissimo allora, del figlio o figlia, non so neanche se sia maschio o femmina, che dice mi auguro che mio padre muoia col pene. È morto. Perché lo deve comunicare? Capito, ma non sai che Marilyn Manson è un maschio, innanzitutto questa ma è la cosa. Ma sì, sarà maschio o femmina, non mi interessa che cos'è. Non conosci Marilyn Manson? È una conosco perfettamente, ha fatto un concerto anche. È una porcheria però, dai. Ma che porcheria? Quale porcheria? No, cos'è? Allora ragazzi, parliamo di cose serie. Allora, dato che vuoi parlare di cose serie, quello che è successo a Latina, il caso insomma di legittimissima difesa, secondo me. Sì, voglio scrivere la sentenza prima dei magistrati. La legge della Zanzara, certo. La nuova fattispecie giuridica. Esatto, legittima la nuova difesa fattispecie al cubo, giuridica. Al cubo, certo. Legittima difesa al cubo, al cubo. Parla il fratello della vittima, questo signore di Napoli di 41 anni che si chiama Bardi, quello che è morto, Mimmo Bardi. Il fratello si chiama Ludovico e dice che il fratello, che pure si era introdotto nella casa per rubare, che pure era in compagnia di altri due figuri, di altri due signori, che certo non portavano i pasticcini, non erano andati lì a fare una scampagnata, non erano andati lì ad offrire fiori alla famiglia di quell'avvocato che poi ha sparato, non erano lì, come dire, pacificamente per incontrare, per intavolare una discussione su Heidegger o su Hegel, no, erano andati a rubare, erano andati a rubare dentro quella casa, non si poteva sapere se erano disarmati, se avevano delle armi, intenzioni avevano, era tutto oscuro. Uno arriva, guarda quei signori e spara, sbagliato, giusto, per me giustissimo, 100 volte, avrebbe dovuto sparare pure gli altri due, ma in ogni caso il fratello dice che il morto era una persona di cuore che ha sempre aiutato tutti, vabbè, e vabbè. Oh, gentile di cuore che ha sempre aiutato tutti e non ha mai fatto male a nessuno. Cioè, quello che è successo è assurdo, io ancora ora non ci credo. Cioè, non so che dire, veramente non ha mai fatto male a una musa. No, giustamente giudicheranno tutti che era un cattivo ragazzo, perché si sa, no? Come va a finire. Però in realtà per chi lo conosce bene sa qual è la verità. No! dice anche: era disarmato, vogliamo giustizia. Era disarmato. Giusto vogliamo sapere giustizia. Come sono andate le cose, mi sembra legittimo. L'avvocato di Palumbo dice: ha percepito una minaccia. Sentiamo l'avvocato del signor Palumbo, quello che ha sparato. Ha percepito una minaccia per la propria incolumità, perché gli si sono fatti sotto, come si dice in gergo, e a quel punto, dopo avergli intimato più volte di fermarsi, di andarsene e così via, ha esploso colpi in aria, evidentemente per dissuaderli. Siccome i colpi sono stati alla fine credo 7-8, dice che con una semiautomatica è facile sparare 7 colpi di seguito, cioè non c'è stato accanimento, dice l'avvocato. Naturalmente poi si entra in un campo che a me alla fine quasi non mi interessa, quello dei dettagli, poi per carità va bene, li analizzeremo, tutto quello che volete, ma a me questi dettagli non mi interessano, non sono male. Non sono interessanti però. Dettagli. Siccome c'è un morto è fondamentale. Sì, ma non no? sono cose clamorose però. Se no, si può fare colpi... il diritto a sparare a prescindere. Magari ti entra la suocera in casa, dice entrata, voleva rubare. Ma se uno si sbaglia, chi se ne frega, ammazza la suocera, d'accordo? E le spari, può capitare. E le spari, se uno si sbaglia, va bene. Per me dentro casa uno può fare tutto. Ma non esiste al mondo questa cosa. Allora, invece, secondo me la legge dovrebbe essere scritta così, molto semplicemente. Cioè, anche dentro... se uno si sbaglia, anche se entra la suocera non voluta in casa e tu gli spari? Ho capito, se anche uno... se entra, ti entra un parente in casa per farti uno scherzo e tu gli spari? Comunque, sentiamo questo avvocato, sentiamo. In una condizione di particolare tensione e di forte timore, è facile sparare 6-7 colpi con una semiautomatica. È una sequenza di poche frazioni di secondo. Voci da Latina, doveva ammazzarli tutti e tre, che poi è anche la mia teoria, caro Davide. Sono per la legittima difesa, cioè forse avrei avuto la stessa reazione. Tre, tutti e tre li doveva fare. Fatto benissimo. E stai un po' zitto, cazzo! Ci stai zitto, per favore! La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cioè io torno a casa, trovo 5 figli di puttana in casa mia, sparo a uno e sono costretto a dire non volevo ucciderlo. Per non andare in galera per colpa di questo stato comunista di merda, però mentre quelli lì che sono scappati cosa devono dire? Scusate, non volevano rubare. Ma dove cazzo siamo? Ma vaffanculo, Parenzo! Ah, così adesso i parenti del ladro ucciso durante il furto a Latina si chiedono come mai ed è troppo? E forse se non vai a rubare non è così tragico. Da Parigi è tutto, il vostro inviato, il Bovo. C'è anche un nuovo personaggio, il Bovo, caro Parenzo, il Bovo. Chi è costui? Chi è questo nuovo? Chi è questo nuovo signor Bovo? Chi è questo Bovo? Intanto Locascio è incazzato perché deve fare la dieta. Il signor Locascio. Beh, come? Hai parlato prima di Locascio? Cioè, Locascio. Ah, è il bipolare. Ah, sì, bipolare, dai, su. Chiamalo bipolare. Ma no, ma dai, bipolare, perché? Non so chi è Locascio. Vabbè, Locascio è l'attore, Locascio. Però l'attore è Locascio, non quello lì che chiama. Mi è venuta un'ideuzza su questa cosa della dieta, il signor Locascio. Locascio e la dieta, sentite, numero uno. Ah, è vero, so dieta, che cazzo, come... So dieta, vaffanculo, so dieta. Quindi anche oggi, ste cazzo le feste biscottate del merda... Sigrete del cazzo, non la tisana qua, che me deve drenare, che cazzo me deve drenare? Me deve drenare i coglioni, vaffanculo, l'ufetto del pollo, le frecce del salata, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. C'è dell'altro sul Locascio? No, ma scusa, ma con chi ce l'ha? Con l'infermiera che gli porta il cibo? Con chi ce l'ha esattamente? Cioè, dov'è che questi audio spuntano fuori? Con chi stava dialogando lì? Con chi è che c'è? Si può sapere questo? In quale clinica è ricoverato? Senti ancora. Questo lo damo a esso? Questo lo damo a esso, ma fango, io non posso mangiare un cazzo. se piace un colpo allo dietologo e ti cazzo l'anche in terra. La narration, eccolo qua, ecco qua. Io che cazzo mangio? Questo lo mangio, no, anche questo lo mangio io, che ti deve pure che mangia l'altra cura. Lufretto, ci facciamo le collatine e la lasagna la damo a lui, tanto stasera tua moglie non te la dammi, ne la mangio. Vaffanculo! Allora, le rivelazioni di ieri qui alla Zanzara della signora Lori del Santo. Lori del Santo dice che è stata con una regista, è stata un regista molto famoso, molto molto famoso, una celebrità del cinema italiano, e si è presentato una volta di fronte a lei con un perizoma rosso straordinario. Sono andata da lui, apre la porta, molto gentile, e arriviamo in una stanza dove c'era una scrivania un po' antica così, molto formale, e lui è stato molto gentile, ha guardato le mie foto, avevo un book con le fotografie bianco e nero, mi ha guardato un attimo, poi mi ha detto scusa un attimo, e poi è sparito. Mi ha chiamato e ha detto scusa vieni, sono andata di là e cosa vedo? Ah, lui era praticamente nudo, ma aveva un perizoma, quindi non ho mai visto l'oggetto in questione, un perizoma rosso senza il dietro, proprio tipo quello, il tanga con il filo interdentale rosso. Era ciccione questo qua? Beh, sì, mi faceva un po' ribrezzo questa pelle bianca. Comunque, la cosa fondamentale, al di là dell'episodio che ha detto, è che si può dire di no. Grande Lori del Santo, si può dire di no. Bisognerebbe oggi, sembra incredibile, ma uno come Interrante, che è un specie di un personaggio del mondo dello spettacolo, tu non lo conosci sicuramente, Interrante ha detto una cosa sacrosanta: ci fosse un sindacato, bisognerebbe fare causa per concorrenza sleale alle donne di Weinstein. Cioè le donne di Weinstein alla fine, addirittura, cioè, un bel paradosso. No, ma ha detto una cosa intelligente. E invece oggi queste denunce servono, perché parlare di questo serve a smascherare questi maiali, dopo, ma chi, capito? Tutti, ma non c'entra niente, non, ma anche se sono ipocriti, ragazzi, se serve per il futuro come esempio, ma il futuro l'aver come cacciato esempio, questo produttore, ma tu pensi che non ci saranno uomini che ci proveranno con le donne? Ci ma saranno, che cazzo però dici? Magari con questo scandalo così, ma mondiale, plateale, mai, eccetera, ma... magari i vecchi porchi. I vecchi porci. Concorrenza i vecchi sleale, voglio sentire Interrante. Concorrenza si ritirano sleale un po' di più. Io, se fosse Hollywood e ci fosse il sindacato per gli attori e le attrici, tutte le attrici di Hollywood, io farei una causa per concorrenza sleale alle donne che hanno accettato il compromesso con Weinstein, perché è chiaro che tu lavori e io no. Ha ragione perfettamente, meglio di Galli della Loggia, è una provocazione. Meglio di Pane Bianco, molto meglio di quelli che fanno le grandi analisi, un attore, un uomo di spettacolo che dice una cosa ovvia, ci fosse, no, ovvia, anche originale, ci fosse un sindacato di quelle che non hanno ottenuto i lavori, dovrebbe fare causa a quelle che l'hanno data via a Weinstein per ottenere dei lavori, per fare carriera, alla grande proprio, alla grande. Giuseppe, provincia di Terni, vai. Buonasera. Vai, dimmi. Buonasera. Allora, io volevo raccontare quello che è capitato a me nel merito della legittima difesa. Sì, vai veloce però, amico mio. Un anno orso. Che ti è successo un anno orso? Ne sono arrivati quattro brutte persone a casa mia. Sì, ladri. Per le scale. Sì, ladri. Sì, allora? Ecco, armati fino ai denti, ma non di pistole, avevano... Sì. Attrezzi da scasso e quant'altro. Io sono armato, avevo a casa mia moglie e una bambina di 9 anni e mia madre al piano di sotto, tra l'altro, anziana. Io non ho fatto altro che intimare a questi signori di fermarsi. Ma che cosa avevi? Una pistola? Cosa avevi? Sì, una pistola regolarmente denunciata. Sono porto d'armi. Cosa hai fatto? Hai sparato o no? No, io prima gli ho intimato, quando loro sono venuti contro di me, io ho sparato un colpo in aria e io gli ho detto ragazzi, dico fatela finita che vi ammazzo. E com'è finita la storia? Bene, è finita la storia che due sono scappati e due sono riuscito a chiuderli dentro a una stanza che sta nella scalata interna. Sì. Benissimo, arrivano i carabinieri, mettono le manette e se li portano via. Sì. Il mattino dopo è arrivato il maresciallo, persona cortesissima tra l'altro, sì, sì, e mi ha detto Giuseppe caro, mi devi consegnare tutte le armi che hai a casa. Cioè ti hanno tolto oggi le armi? mi hanno tolto le armi, sono stato denunciato. Cioè hai fatto il tuo dovere, cioè hai praticamente rinchiuso quelli là, sono arrivati i carabinieri, sei stato denunciato da chi? Da questi? Sono stato denunciato da loro. Dai ladri? Dai ladri, perché sono stato rinchiuso. Gli altri due il mattino dopo erano in giro e io sono stato denunciato per minaccia a mano armata, aggravata dal fatto che ho gridato ti ammazzo. Una testimonianza roba incredibile, ragazzi, aspetta, dopo ce la racconti meglio, ci dobbiamo fermare. Una storia incredibile che dimostra come, se uno fa il suo dovere anche con pistola in mano e fa arrestare due ladri rinchiudendoli dentro, poi finisce come finisce, denunziato, lo dico in maniera arcaica alla Fusaro, denunziato alla Taormina, denunziato, fermi tutti. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. La Zanzara. In diretta sono San Gennaro, facci un favore a Parenzo, dagli dolore. San Gennaro, tu che sai tutto, a Parenzo rubagli tutto. Parenzo, ti voglio carico! Allora, il 17 ottobre del 2017, fuori comincia a fare un po' freddino, ma si sta ancora bene. In Siria è crollata la città di Raqqa dopo un lungo assedio. In Italia Parenzo non ha ancora assunto la ROM. Vabbè, aspettiamo. Parenzo, mi raccomando, alla ROM lascia anche le chiavi del SUV, perché se deve andare a fare la spesa in qualche modo dovrà pur muoversi per Roma, no? Assumi la ROM. No. Parenzo, la maggioranza silenziosa è con te. Non assumere un cazzo di nessuno. Vagli nel culo a quella merda di Cruciani. Cruciani, vaffanculo. Vaffanculo. Sì, va bene, ottimo. Anche questo. Ma siamo a quota 6.000. Abbiamo sfondato quota 6.000. Sono 6 persone tutti che continuano a votare. Non c'è nessuna certificazione. Chiamo l'ONU. Comunque, noi della maggioranza silenziosa siamo per estendere i diritti, non per fare della deficienza a persona. No, è una campagna che aiuto per come è stata congegnata da quelle menti bacate di alcuni telefonisti della Zanzara che pensano in questo modo di scalfire o di mettermi in discussione. Noi della maggioranza silenziosa lavoriamo sul piano dei diritti, non sul piano della carità. Carità la lasciamo fare ai singoli che vogliono. Io non è che vengo a dire a te i miei atti di generosità ad personam che posso fare. Siamo tantissimi, ma ragazzi, siete chi? Ma siete chi? Mi hanno segnalato che anche tu hai votato, peraltro. Non ho votato. Qualcuno mi ha detto Giuseppe ha votato. Mi è arrivato un messaggio su Twitter da qualche parte. Comunque ti ho detto, quando sarete a un milione, allora io a quel punto posso forse prendere in considerazione il fatto di fare un milione. 10.000 realistico. No, 10.000, ma io me ne frego di queste robe popolari, non me ne frego di queste petizioni falsamente democratiche, ma come direbbe Feltri, ma io me ne frego. A proposito, sul caso Asia Argento, collegamento con la redazione, la direzione di Libero, Vittorio Feltri. Ma quale Libero? Io sono alle 7:30, ho preso la mia berlina nera, bellissima, con a capo una autista che guida, vero? Sono andato a fare un aperitivo, me ne frega niente di voi, niente. Ho già chiuso il giornale, abbiamo fatto un titolo, siamo tutti a posto, me ne frega di niente. Che titolo è? Abbiamo fatto un piccolo. Che titolo? Ma la Troia di Asia abbiamo messo. Ma semplicemente così. Una cosa normale. L'Asia come evidente continente, dice, una cosa chiara, è un fatto. La Troia di Asia abbiamo messo. E poi abbiamo fatto una domanda ai lettori. C'è una che limona con il cane, è evidente, straevidente. Comunque, se gli piace limonare col cane, non c'è problema per me. Può anche limonare con il cane. Me ne frega niente. Studio a prendersi. Abbiamo fatto un titolo normale, mi pare normale. Fattuale, recependo. recependo quella che è la discussione che io leggo quotidianamente dappertutto. Quindi abbiamo semplicemente sintetizzato quello che la gente dice. Quella troia di Asia, ma mi pare adesso scandalizzarsi perché ho detto il nome Asia, non mi pare una cosa così, no? Allora, prima di tornare da Giuseppe, che ripeto, è stato lasciato senza arma dopo avere fermato i ladri in casa, è stato anche denunziato, come direbbe Tormina. Vengo subito da te, Giuseppe, così proseguiamo questa fantastica storia, la dimostrazione che l'Italia alla fine da questo punto di vista è un paese di merda. Ti voglio leggere una cosa straordinaria, Davide, la voglio leggere a tutti. Sì, sì, è sì. Il diario, sì. Giorno per giorno, voglio leggere per una settimana intera o forse due puntate al giorno, non lo so, il diario di una prostituta che è in un bordello in Nevada. Primo giorno, 11 del mattino. Sono da 6 giorni nel bordello più famoso del Nevada e quella di cortigiana legalizzata è la carriera che ho scelto di intraprendere da 7 anni a questa parte. Mezzogiorno, scendo nell'atrio dell'albergo per accogliere nuovi clienti insieme alle mie colleghe, evito sempre di guardarli negli occhi. Alle 13 è l'ora della visita medica, ogni settimana un ginecologo viene a controllarci una ad una. Dobbiamo essere pulite per poter lavorare serenamente. Odio sentire le maldicenze della gente sulle prostitute, pratico più sesso sicuro di voi. Per legge persino i pompini devono essere fatti con il preservativo. Sono le 3 del pomeriggio e mi sto truccando, è il momento che preferisco, mi sento un'attrice ed è sicuramente una routine diversa da quella che ho in casa in New Jersey. No make up, coda di cavallo e maglioncino Patagonia. Alle 18 il telefono squilla, sono i miei figli di 8 e 11 anni, parliamo un po' della scuola, di come vanno le cose. Sono divorziata da 4 anni e loro trascorrono 2 settimane con me e 2 con il padre mentre lavoro. A volte, questo lo tossisce questo coglione, a volte mi chiedo cosa succederà quando cresceranno, cosa diranno di me. C'è ancora tempo per pensare alle risposte, mi sono detto dal momento in cui sono nati a oggi, ma il giorno in cui dovrò dargliele sembra essere sempre più vicino. È mezzanotte, ritorno nella mia stanza dopo una serata splendida in compagnia di un uomo solo molto interessante. Ci siamo goduti delle coccole in vasca da bagno, dei massaggi, del buon sesso. Credo avesse bisogno di un po' di compagnia più che altro. Sua moglie era morta di cancro anni prima e questa era la sua prima volta dopo l'accaduto. Questo è il primo giorno di una puttana nel bordello più famoso del Nevada che ha scelto di intraprendere la carriera di cortigiana legalizzata anche per divertimento. Giuseppe, dalla provincia di Terni, ti hanno tolto le armi alla fine? Sì, mi hanno tolto le armi, sono stato rinviato a giudizio, a novembre avrò il processo. Rinviato a giudizio adesso a novembre? Sì, sì, ora è novembre. Cioè, tu stai subendo un processo per avere minacciato i ladri. Ragazzi, questa è una storia incredibile. È incredibile questa, è una storia pazzesca. Ma che gli vuoi dire, Giuseppe? Perché lo vuoi attaccare? Non ho capito. Cos'è che io non voglio attaccarlo? Io è dico giusto che questo subisca un processo per aver detto. Che cosa hai detto esattamente? Qual è la frase che hai detto ai ladri? Io gli ho detto, no, siccome erano anche strapotenti, 5 contro 1, e ti premetto, nonostante fossero armati, vista la differenza fisica, era sufficiente per loro darmi uno schiaffo per mettere il certo, allora... KO. Io ho soltanto detto, ragazzi, fate 2 passi indietro, uscite da quella porta, se no io vi ammazzo. E quell'altro, un ragazzo con un accento romano, un ragazzone, sì. Però là ci mi ha detto, e vedi un po' se c'è coraggio a spararmi, così proprio vedi un po'. Sì, sì. Allora dico, sai che c'è, ho sparato sul soffitto dall'altro, e poi ho preso anche un rimprovero da mia moglie che ho corrotto il conto del soffitto. Vabbè, sua tua moglie, il rimprovero da tua moglie, davanti ai ladri, mi sembra esagerato, amico mio. Per drammatizzare. Cioè, dico, ora ti sparo. Allora, 2 sono scappati, gli altri 3 li ho messi dentro. Vabbè. E là si è iniziato il casino. E capisci, la mattina dopo sono arrivati i carabinieri, che si erano portati quelli. E io credevo che il maresciallo fosse venuto a constatare, anche perché siamo paesi piccoli in Umbria, ci conosciamo tutti. Ho capito, ma qual è il problema adesso? Io no, non il capisco. Problema è che questo signore qui sta subendo un processo. Per quali sono i reati? Scusa, Giuseppe. I reati. Minaccia a mano armata aggravato dal fatto di aver gridato io ti ammazzo e di aver chiuso in una stanza 3 dei 5 signori. Vabbè, dimostrerà le sue ragioni. L'avvocato, non mi pare. Lo stai pagando l'avvocato, immagino, no? Chi me lo paga? Parenzo, non credo. Parenzo, vuoi pagare l'avvocato al signore? Ho capito, ma questo perché non paghi l'avvocato al signore? Ma perché volete farmi pagare tutto a me? Ma cosa volete da me? Ma io non ho capito. Ogni cosa perché non la paghi tu? E gli immigrati prendili a casa tua? Ma che cosa dovrei fare della vita mia? Non ho capito. Solo perché sostengo delle idee devo ospitarmi centinaia di migranti a casa. Devo assumere delle robe. Devo pagare gli avvocati. Chi spara? Ma non ho capito. Ma che cazzo vuoi da me? Ma che mondo è? Ma cosa volete da me? Cosa mi rompete le palle? Non me ne frega niente di quel che dico. Io ho le mie idee. Non mi potete dire. Allora pensa. Ma no, perché tutte le volte dice. Era una battuta, era. Okay. Ma no, perché ogni volta dice allora fallo tu, allora prendi tu. Ma se io dovessi, era una battuta bellissima, ma se io dovessi dar seguito a tutto quello che mi dite, prendila tu, fai tu, fai tu. Ma non basterebbe lo stipendio di Donald Trump, però, per tutte le cose che mi dite di fare. Giuseppe, tu con chi sei incazzato per questa storia? Torniamo... Io sono incazzato con me stesso. Perché con te stesso? Perché, scusa, no, sai che avrei dovuto senti fare l'altro che fa il finto compassionevole, come se gli interessasse qualcosa. Certo, dimmi assolutamente. Perché raccontami una storia terribile. Certo che mi interessa, assolutamente. Ma non te ne frega nulla, te non te ne frega niente di questo qua. Te ne fotti semplicemente a Izzi adesso, perché adesso questi altri imbecilli chiamano e diranno: ecco, Parenzo si è scagliato contro quello. Ha chiuso uno in una camera, ha chiuso uno in una camera, l'ha minacciato anche a fin di bene e c'ha un processino. Basta, fine. Ma non, ecco, senti l'altro. Ma certo, ma non ti vergogni per quello che hai detto. Ma non ti vergogni. Senti come carica. Ma non ti vergogni per quello che hai detto. L'ha chiuso e si becca un processino. Ma sei processino, scemo, sei. Processino non lo so perché cosa. Ma processino un paio di un cazzo, processino. Apri le orecchie, te lo spiego. Ecco, apri le orecchie, Parenzo, apri le orecchie. Ecco, senti l'altro come si carica la vicenda. Poi credo che tu, se posso darti, tu sei esperto, sì, quasi, come? Voglio dire, no, in materia, io per minaccia a mano. Quale materia, scusi? In materia giuridica, se non... Ma che beh, non c'entra niente questo, sono esperto di tutto. Bene, io, però non è quello il problema. Il tempo di questa cosa è quell'altro ragione, che vi carica, capito? Io non ho ragione, non voglio fare la vittima, è vero. No, che hai io... ragione, che non, è, non vuoi fare ecco, la vittima. Senti l'altro, sentilo come carica. Una testa più calda della mia, perché quando ci si trova di fronte a una situazione del genere, tu pensi che devi crescere una figlia, e se tu spari a questi brave persone, no, che fai? Ti attieni a quello che è la regola di ingaggio, no, di una situazione come quella. Cosa avresti dovuto fare, secondo te? Perché ti stai pentendo di quello che hai fatto? Mi sto pentendo perché sono arrivati la mattina dopo. Io pensavo che il maresciallo venisse a dirmi: guarda Giuseppe, come stai, come non stai, il rituale in dei paesi di 500 e invece? Persone. E invece? Dice che questo è il magistrato, ieri sera ha convalidato il sequestro delle armi, tanto ti togliamo la tua arma personale e le armi addirittura non posso detenere neanche le armi che mio padre, che era cacciatore. Ma per Parenzo hanno fatto bene, questo è il punto, per Parenzo hanno fatto bene, questa è la cosa clamorosa, a togliergli le armi, secondo te hanno fatto bene a togliergli le armi, questo ma dillo. Non decido io, ha deciso la magistratura, ma non è comunista. Il magistrato è sottoposto avrà motivato in alcuni modi che noi non sappiamo, con quale motivazione le hanno tolto le armi, con quale? Avresti dovuto sparare avresti dovuto un colpo in aria. Colpo in aria, sì. Scavo in aria, oh, io ho gridato, gravissimo, un colpo in aria gravissimo. Beh, sì, se ecco, avessi colpito, gridato, certo, è grave. Io ho gridato a questi bravissime persone, dico: ragazzi, non fate un passo indietro che vi ammazza tutti e cinque. Vergogna, si devono vergognare quelli che l'hanno incriminato. Sì. Quelli che hanno incriminato questo signore, si devono, lo posso dire io al posto tuo. Perché ma io mi auguro che lui si difenda e si difenderà benissimo. Io mi difendo e mi auguro che venga assolto. Perché... Dopodiché, mi auguro si ovviamente detto, che venga assolto. Si becca il processino, però. Si becca il processino. Evidentemente, per quello che è avvenuto, hanno ritenuto di dover fare delle indagini e rinviarlo a giudizio. Fermi tutti. Giuseppe, grazie, ciao, a presto, ciao. Lasciativo Parenzo e alla defecarsi io non ci penso. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Naturalmente. Parenzo è a favore dei criminali? No, non è a favore dei criminali, è a favore di questi che vengono, vanno a casa, dateci casa, di questi è a favore, Parenzo, capito? Ma che senti solo, ma come faccio io? Stai zitto, cornuto, capito? Strozzo, stai zitto, non parlare, non dà sempre ragione a questi quattro marocchini. Con chi sta interloquendo questo signore, scusami? Non lo so, con te, Parenzo, uomo del secchio pieno di merda, stai zitto, fammi parlare, capito? Facci carina! Quello se li vuole quello se li vuole, viva Arduzzi e viva lì! Senza controllo sanitario. Se neanche dai ladri che ti entrano in casa ti puoi difendere. Che bel paese di merda che siamo diventati. Che schifo. Che bel paese che siamo. Se continuiamo così tra un po' chi fa una rapina faranno i funerali di Stato. Se uno mi entra a casa io gli sparo al cuore, cazzo. È una cosa giusta perché... Sì, ma lo squirting... fine c'ha anche ragione questo, eh? Dice alla fine queste discussioni, però lo squirting che fine ha fatto? Ragazzi, non è che possiamo offrirvi tutte le sere il medesimo menu, come dire, no? Il medesimo menu sessuale. Abbiamo analizzato, per esempio, il fenomeno dello squirting in lungo e in largo, anche in lago, direi, dato che siamo in materia, no, Parenzo? Per cui lasciateci spazio anche ad altri temi. Questo, per esempio, delle rapine in casa, effettivamente non l'abbiamo mai trattato, se dobbiamo dire la verità. È la prima volta, mi sembra, che trattiamo questo tema delle rapine in casa. Mi pare di sì. Adesso stavo appunto guardando nell'archivio. Stavo scartabellando nell'archivio della mia memoria. Ti sembra una novità? Anche questa mi pare una novità assoluta, certo. La quinta colonna ha portato la trasmissione in una moschea. Sì, meraviglioso era ieri, bellissimo. Con la signora Mussolini. Con la signora Mussolini. Signora anche l'altro, anche il matto, anche il mitologico Meluzzi. Anche il signor Meluzzi. Meluzzi. La moschea. A un certo punto non si capiva. Bellissimo il titolo: era le telecamere di quinta colonna. Ecco cosa c'è in moschea. C'è niente. Ma cosa c'è? C'è una moschea, no? Ecco, ma voglio dire, ecco, sembra, dice, ecco il covo di Rina. Allora uno lì può capire, chissà che cazzo c'è. Ecco cosa c'è, le telecamere, esclusiva. Ma è esclusiva, veramente non è esclusiva. Perché tantissime... me l'hanno accordato. Ma anche perché il mese prima erano collegati da lì. Quindi non è esclusiva, no? Perché dice, vabbè, ecco, esclusiva dentro le periferie. Ma sono anni che... Senti, la Mussolini che a un certo punto battibecca con un imam islamico che è là. Allora, l'imam, per esempio, io parlo con lei e lei mi piace sta parola, ma l'imam dov'è? Ecco, l'imam sta qui. E dove, facciamolo venire. È possibile. L'imam sta qui, certo, l'imam sta qui, non è che io sto nascosto. L'imam, voglio sapere l'imam dov'è. Allora, ecco, l'imam sta qui. Faccio la domanda. Rispondo. L'imam parla italiano? No, è quello. È tutto un casino questo. Dov'è l'imam? Ma l'imam sarà per i cazzi suoi, non è che è obbligato ad andare là, no? E dov'è? E dov'è? Appunto, sì, perché devono processare, bravo, questo mi era sfuggito ieri. Esatto. Guarda che ti manda i matti anche a te sta roba, no? Sì. E dove si è nascosto l'imam? Ma sarà per i cazzi suoi, ma anche male, il signor imam, male, no? Meno male che la Mussolini non si prende sul serio. Meno male che la signora Mussolini non si siete, prende... Comunque siete incredibili voi, siete incredibili. Cioè avete creato dei mostri. Aspetta. Lei ha parlato che non parla la lingua italiana, questo è il problema. Sto dicendo, se l'unico che fa la predica è l'imam che non parla italiano, come facciamo noi a sapere che l'imam divulga cose potenzialmente pericolose? Certo, va bene, ecco, la risposta a questo. Scusate, la prima cosa è della risposta. Vabbè, conversazione surreale, poi a un certo punto arriva uno, sempre lì, credo, che dice musulmani... vivono solo per pace, no guerra, vivono, stupenda questa serie. Io voglio dire a tutti quanti, tutti gli italiani che ci stanno, tutti i comunità musulmani, musulmani vivono solo per pace, né guerra, né litigare, né fare quindi lo... Questo è vivono per pace, no per guerra, questo è vivono, invece di vivono, dice vivono. We want the bees. Want the only bees. Only bees. Comunque è assurda questa canea che si fa veramente. Le telecamere di quinta colonna dentro la moschea. Ecco cosa c'è in moschea. A me quando c'è l'ecco mi girano i coglioni in modo vorticoso proprio. Maurizio da Biella, vai Maurizio. Pronto Cruciani, volevo parlare di quel ladro ucciso. Sì. Ah, una cosa a parte, ti ho appena visto in televisione su Rete 4. Il sottotitolo... Rete 4 in televisione quando cazzo è, scusa? Adesso. Non lo so, che hanno passato, che è Blob, che è Rete 4? No, era Rete 4 il telegiornale. E che hanno fatto su Rete 4? C'era il sottotitolo, la televisione era bassa, con scritto anche i VIP amano farsi poco la doccia. Hanno ripreso in realtà un articolo uscito oggi su un quotidiano, credo fosse il Messaggero, e vi leggo il titolo, ce l'ho qua davanti: l'ultima moda da Londra, basta lavarsi, non è chic. E citano un'ex attrice, che cazzo è, un'icona della moda, come si chiama, Vivienne Westwood, no? Che dice che il sapone rovina la pelle, anche il suo uomo fidanzato molto più giovane di lei, che in realtà dice anche lui che non bisogna lavarsi troppo, bisogna farsi poche docce al giorno, eccetera eccetera. E un altro ancora che dice addirittura che bisogna spruzzarsi i batteri che nutrono l'epidermide come i fermenti lattici. e citano diversi personaggi, appunto questa Westwood, Mauro Corona, un altro attore anche parte, Matthew McConaughey addirittura, e poi il sottoscritto, il conduttore. Vabbè, a parte che dicono ex conduttore della Zanzara, al Messaggero, facessero un ripasso, evidentemente hanno informazioni che non sappiamo. Ma non c'è nessuna informazione, no, prendiamola no. per buona, prendiamola per buona, no, finalmente, ma devo dire, ex. No, ma devo dire sempre più personaggi ammettono di non ricorrere alla Polizia Quotidiana. Ragazzi, non è che vi fa onore. Io non lo faccio né per una questione di etica, né per una questione, siamo un maiale. Sì, esatto, certo. Bravo. Non lo faccio per una questione, sei proprio uno sporcaccione. No, ma è vero, non è che lo fai perché ti vuoi. Voglio informare che io non lo faccio né per risparmiare acqua, né perché penso che i saponi fanno male alla pelle, me ne sbatto i coglioni. Non lo faccio per pigrizia, perché mi annoia terribilmente, mi dà fastidio l'acqua. Non lo faccio per motivi etici, lo faccio solo per quello. Maurizio, continua, vai. Allora, senti, io volevo parlare un attimo con Prenzo. Io ho 61 anni, ho un lavoro. Forse non so se c'è. Vediamo, non so se c'è. Sì, senti un attimo, io ho fatto degli anni di galera e un rapinatore. Questo è buono, questo è buono, questo è molto buono. Io sono stato a contatto con io rapinatore come altri e con ladri di appartamenti. Cioè qui, capisci, non chiamano filosofi, sì, effettivamente i filosofi chiamano, in realtà li chiamiamo noi. Cioè, un ex rapinatore, quanti anni hai fatto in galera, Maurizio, da rapinatore? Diversi, non ho mai fatto male a nessuno, perché comunque ci va un po' di coraggio per vincere la paura. Io ti posso dire questo, chi va in un appartamento va perché non può fare le rapine, perché ha paura. Quella paura è la stessa che ha il padrone di casa quando le trova davanti. La differenza è che qualche volta è armato. Se non è armato, io ti posso dire, sti ragazzi, giovani o non giovani, che entro in un appartamento con la paura, io spacco la testa piuttosto di farmi prendere. Questo te lo posso assicurare. Ma tu hai fatto rapine in casa o rapine alle banche, ai tabaccai, ai negozi? No, nelle banche. Nelle banche. Quanti anni di galera hai fatto? Diversi. Vabbè, dimmelo, 20, 15, 10, 7, no, 3. No, che 6, ti frega? 6 anni 6. Di galera, benissimo. Allora, io voglio dire una cosa: questo signore, che è chiaramente un ex pregiudicato, un ex galeotto, signor Maurizio da Biella, che io stimo moltissimo per quello che ci sta raccontando, per la telefonata che ha fatto, ci sta dicendo, Parenzo, che un ladro di appartamento può fare male. Cioè, è molto, dice che ha più paura. Ha la stessa paura che ha il padrone di casa. Perché non è, perché tu dici non è così violento. Tu dici non è così deciso come un rapinatore che va in banca. Perde la testa. Cioè, non ha il coraggio di fare le rapine, quelle in banca. Ma certamente, è chiaro, rende e dunque di più ha la pistola più facile, ha la reazione più facile, dici tu. Ma no? Certamente, io ti posso dire, parlando con chi è, ma non certo per fare i gradassi, me l'hanno detto. Io, se mi devo far prendere, andare in galera, se trovo uno davanti, io gli spacco la testa per così farmi prendere. Ma se non è armato. Ma ragazzi, questa testimonianza è importante. Stasera veramente ci sono ascoltatori meravigliosi, vi invito a continuare a chiamare, eccetera. Sì, perché certo. sono due fotografie della realtà. Uno è un signore, ma voglio approfondire veramente la cosa, citando anche il giudice, andando a scavare, che gli hanno tolto le armi, l'hanno denunziato, adesso c'è un processo dopo che è stato rapinato in casa. Quest'altro che dice, guardate che un ladro di appartamento in realtà può essere molto più feroce nella reazione, giusto Maurizio? La stessa paura di chi è in casa, se no non andrebbe in una casa, salterebbe un bancone, andrebbe in banca, come ho fatto io con una pistola a scarica. Ciao Maurizio. Non mi ha mai sparato nessuno. Ciao Maurizio, ciao. Giovanni, ciao, Roma, ciao. Vai Giovanni. Pronto? Vai Maurizio, sì Maurizio, quello vuole prima. Giovanni, vai. Scusate, io telefono tante volte ma non sono riuscito mai a parlare. Comunque, vai. Volevo dire di questo fatto qui, allora? La legittima difesa. Allora, cose ovvie, uno sta in casa, si deve difendere. Assolutamente, ma come fai a distinguere quello che mi fa bene, mi fa male, io non sparo o sparo, comunque non è una questione di armi. Perché vabbè, ma tu entra, che cosa avresti, cosa avresti fatto al posto suo? Gli avrei spaccato la testa a tutti e quattro. Cioè avresti sparato a tutti e tre? Tre erano, pare. Mo, a sparare io un'arma non ce l'ho e quindi però, non sparo. Però se ci avessi avuto qualcos'altro in mano avresti fatto fuori, sì, cercato di far fuori tutti e tre. Ma certo, ragazzi, ma che ne sai che cosa c'hanno in mano? C'hai il padre, la figlia, la sorella. No. Io non avrei fatto un cazzo, ragazzi. Io ho una paura fottuta di queste cose qua, di un lato. Dunque io personalmente, probabilmente... Ma però non sei armato. Ma tutti noi abbiamo paura. Tutti noi abbiamo paura, ragazzi, se c'è qualcuno in casa. Ma ragazzi, cosa batti poi su quel tavolo? Ragazzi, armi per tutti, ma chi sei, la Vanna Marchi della radio? Armi per tutti, d'accordo? Se uno entra in casa facciamo lo sconto di pena, vi diamo a tutti l'immunità, d'accordo? Sparate pure, d'accordo? Ma che roba sei? Ma chi sei? Ma chi? Ma è una cosa incredibile, non ti si può neanche dire prezzolato e pagato dalla lobby delle armi, perché non è vero, e io lo so perché ti conosco. L'unico stipendio misero che hai è quello di questa ottima Radio 24. L'unico, quindi non è che dice anche altri interessi, hai l'interesse a dire minchiate, no, ad alimentare questa povera gente qui che chiama, questa è povera, posso essere, dirti, è povera gente, no, povera secondo gente? Me quella Giovanni che chiama, è povera gente. Posso dirti Giovanni, di più, se, posso, ti posso ti dirti dato una del cosa Giovanni, in più, eccolo, senti come istighi, povera gente, manipolata dalla cattiva informazione. No, ma sicuramente lui non c'ha diritto di parlare di poveracci, visto di come sta, perché sicuramente quelle persone a casa sua non ci andranno. Come no, lui ma non povera gente, non nel senso del denaro, ma nel senso un po' così, del pensiero, non corto, niente, non del denaro, io non valuto nulla. Le persone per il tu denaro, ma per il pensiero, il vostro è pensiero di corto, il vostro è pensiero corto, capito? E io non vivo in estrema periferia, io vivo dentro, ma non lo sa mare. Cosa significa, non lo ma sa io, amico mio, no, è abituato al top alle 5 Vacci, stelle, adesso chiama qualcuno, è abituato alle 5 stelle, va Cipagne, ma cosa c'è? Adesso chiamerà qualcuno, vacci tu a vivere lì, vacci tu a vivere lì, sei abituato allo champagne alle 5 stelle, dai, no, ma lo champagne non... Io abito a Cinecittà, intorno a me, ci stanno almeno 4-5 agglomerati del zingaro, lo sai che cosa vuol dire vivere anche se Cinecittà, il Quadraro, no, ma certo, zona... quello immagino, ma sai la cosa significa vivere? Zona. Lo sai cosa significa vivere? Non lo sai cosa ma significa vivere? Ma è pericolosissimo. Io immagino che adesso, al di là degli zingari, sì, è molto pericoloso anche solo la sera dopo le 8:30 prendere la metropolitana da Cinecittà ad Anagnina. Ma certo, tu che non prendi la metro, sicuramente. Come? Sì. No, io spesso prendo la metro per andare, ad esempio, a Radio 24. Ti fa schifo prendere la metro? Mi fa molto schifo, ma è evidente. Ma chiunque, non è come quella di New York o di Londra. A me non fa schifo. Ma no, a Milano non mi fa schifo, a Roma mi fa schifo. Posso dirlo? Sì, a Roma mi fa schifo prendere la metropolitana e ho anche paura alle volte. Fermi tutti. Noi siamo musulmani seri 100% e ci crediamo. Tu non credi un cazzo. La Zanzara. Lorenzo parla degli immigrati che non li ha mai visti, non li ha mai visti, come non li ho mai visti io, se non qualche volta per strada, ma in macchina, la mia bella berlina, quindi a me degli immigrati non me ne fotte un cazzo. Questa resterà storica, ragazzi. E chiamiamo. Mi spieghi il senso della berlina? Perché l'ha detto male? La mia bella. Il termine berlina è molto interessante. La mia berlina. La berlina una volta era considerata la macchina, diciamo, ecco, dell'arricchimento. Della nomenclatura, no? Dell'arricchimento più che altro. Cioè, quando sei ricco, la sei benestante, non ti puoi permettere la berlina. Oggi è il SUV, no? Non si dice più la berlina. Cioè, la berlina è quasi da sfigati rispetto al SUV, no? Cioè, il SUV è una. E infatti, Parenzo è il SUV. Fermi tutti, chiamerei. Grazie per diffondere. Grazie. Chiamerei Ludovico Bardi, che è il fratello della persona ammazzata. Sentiamo cosa ha da dire, signor Ludovico. Sì, mi sembra sì. che sia incazzato, ovviamente, con quello che ha sparato al fratello. Però, amico mio, il tuo fratello è andato a rubare. Comunque, chiediamogli qualcosa. Vai. I said, are you gonna be my girl? Pronto? Sì, buonasera, parlo con Ludovico Bardi? Sì, salve, qui Radio 24 da Milano, buonasera. Buonasera. Volevo capire una cosa, secondo te tuo fratello è stato vittima di un omicidio volontario? Secondo me sì. Com'è che sei così certo di questa cosa? Certo è impossibile, perché mica mi ritrovavo sul posto per dire che sono no, certo. No, certo, e come mai allora sei così sicuro nel dire che è stato ucciso con un omicidio volontario, cioè che si tratta di un omicidio volontario? Prima cosa era disarmato. Sì. Poi lui non era una persona minacciosa, quindi non avrebbe minacciato un'altra persona. Cioè, secondo te gli ha sparato per ucciderlo? Secondo me sì. Che persona era tuo fratello? Era una persona gentile, solare, socievole con tutti. Cioè, era una persona violenta? No, assolutamente. E com'è finito lì in quella casa? Scusi, però. Com'è finito in quella casa, in quella situazione? Io non posso sapere quello che aveva lui in testa. In quel momento, perché ha fatto questo sbaglio? Perché sì, indubbiamente è uno sbaglio. Cioè, voi sapevate che andava a rubare? Mi risulta che avesse dei precedenti, adesso non so bene. Oppure... No, assolutamente. Cioè, non aveva nessuna condanna? È stato confuso con un'altra persona. Dunque, lui era incensurato? Lui era incensurato. Aveva un lavoro tuo fratello? Mio fratello ha sempre lavorato. Era da qualche anno che ha perso il lavoro. Che lavoro faceva? C'è il muratore. Dunque ha perso il lavoro e non sapevi quello che faceva? Cioè può essere finito in un brutto giro? Non sapevi nulla da questo punto di vista? Questo no. Scusa, secondo te quando qualcuno si introduce dentro una casa, perché ovviamente stava andando a rubare evidentemente, no? Sì. Una persona non ha diritto di reagire per difendersi? Cioè quel signore lì magari temeva che tuo fratello avesse una pistola, o no? Ma in pieno giorno? Beh, l'avresti vista. Beh, no? Non c'entra non giorno o notte. Beh, adesso uno può rubare anche di giorno, ma adesso non stiamo qui a fare il processo, naturalmente, perché per carità sì. Ci sono altre persone che lo fanno. Infatti. Se qualcuno si introducesse dentro casa tua, per esempio, tu abiti in un quartiere complicato, ho letto, no? Di Napoli, Rione Traiano. Se qualcuno sì. venisse dentro casa tua, tu reagiresti o no? Ma sicuramente non in quel modo. Non spareresti mai? Prima cosa io chiamerei la polizia. Dunque secondo te lui avrebbe... Penso che se ne devono occupare loro di queste cose, no? Dunque secondo te lui avrebbe dovuto chiamare questo signore qua, questo avvocato avrebbe dovuto chiamare i carabinieri? Certamente. E se tu lo avessi... Anche perché avere il porto d'armi non significa sparare, no? No, no, vabbè, uno può decidere se sparare o no, su questo non c'è dubbio. Ecco, la cosa che ti voglio chiedere è questa, la motivazione che secondo te può avere portato tuo fratello, cioè tu dici, io è sempre stato uno buono, eccetera, e gli mancavano dei soldi, era in difficoltà economiche... Forse è potuto essere questo, cioè ti ripeto, io non potevo stare in quello che ha pensato in quel momento perché ha fatto quello sbaglio. Cioè non conoscevi in realtà la vita di tuo fratello, questo in realtà, se sei andato a rubare con delle certo. persone, in tre persone, forse non era nemmeno la prima volta o no? Questo non lo posso sapere, ma io suppongo che era la prima. Questo sì. Non è la persona che conosceva lei, evidentemente, anche se è suo fratello, perché scusi, cioè, uno può anche perdere il lavoro. È sbagliato andare a rubare, tutti quelli, no? Appunto. Ma io infatti io finora ho sempre detto che mio fratello ha sbagliato. Io sono per la legge, sì, ha sbagliato, assolutamente. Cioè, avrebbe dovuto pagare, sì, ma... Scusa un attimo. Ma no, addirittura pagare con la morte. Ecco, che cosa merita secondo te chi ha sparato a tuo fratello? Cioè, se lo avessi davanti, che cosa gli diresti? Io in questo momento provo solo rabbia nei suoi confronti. Rabbia nei suoi confronti? Sì, molta rabbia. Molta rabbia perché tu dici chiama la polizia e non sparare, cioè chiama le forze dell'ordine. Lui dice di essere rimasto spaventato, questo avvocato. Non lo posso sapere, ti ripeto, non so quello che sia successo quel giorno. Questo lo deve dire la giustizia e io mi affido solo a loro. Cosa volete come famiglia? Vogliamo giustizia. Giustizia, dunque volete una punizione per questa persona che ha ammazzato tuo fratello? Certo, come l'ha avuta mio fratello. Cioè, una punizione come l'ha avuta tuo fratello, che vuol dire? Mica che volete? No, l'ergastolo? Non in quel senso. Però dico, mio fratello è stato punito. Deve essere punito anche quello che l'ha ammazzato. Certo. Va bene, grazie. Grazie. Grazie a voi. Sì, ma non funziona così, cioè non è che funziona punito come è stato punito mio fratello, cioè ragazzi, qui c'è un punto fondamentale, cioè la storia nasce, lo ha detto pure il fratello, dal fatto che ci sono delle persone, tre persone che si introducono in una casa. Benissimo, questo se siamo questo d'accordo. Non fosse avvenuto non ci sarebbe stata questo la reazione, è un reato. Punto, ma siamo e d'accordo, basta. Ma non c'entra niente, mi dispiace ricordarti lì, che quando c'è un morto lì. È ovvio che ci si accerta ma come sì, è morto, no? Vabbè, ma no. Sì, ma dentro casa puoi fare quello che ti pare, anche squartarlo vivo, ma ragazzo squartarlo mio vivo, purtroppo no. Sparare, sì. Questa si chiama democrazia, ma la legittima difesa esiste. È stortura, sì, è stato stortura. Di diritto, stato di diritto, è morta una persona, si verifica perché, come, in quale circostanze si poteva evitare? Domande alle quali darà una risposta una cosa molto bella che si chiama processo. Ah, bello, dal bello, latino bello. Vai a vedere l'etimologia bella del termine cosa, processo direbbe, bella cioè cosa. Procedere. Vedi, ma che vuoi fare? Io bella non ho capito cosa. Perché non vai, perché nessun non vai processo nel Qatar? Contro chi si difende perché dentro non casa? Vai nel Qatar? Perché Qatar? Non vai nel Qatar? Vai nel Qatar, Qatar. Qatar. Nel Qatar se tu mi rubi qualcosa muslim, io ti taglio una manina. I muslim piacciono a te, non a me. Fermo là. Vai nel Qatar. I muslim piacciono a te. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La zanzara. L'ultima moda dei VIP è quella di non usare il sapone. Basta lavarsi, non è chic. Almeno così dice la stilista inglese Vivienne Westwood, che ha lanciato la crociata contro il sapone, che spiega, rovina la pelle. La pensa così Fulco Pratesi, ex presidente del WWF, per il quale è sufficiente una doccia ogni 7 giorni. Ancora più rigido lo scrittore Mauro Corona, che vive tra le montagne. Per lui basta una doccia ogni 3-4 settimane. All'acqua è refrattario anche il giornalista Giuseppe Cruciani, che oltre a lavarsi poco ha confessato di non usare mai il sapone. Lavarsi con il contagocci è anche la filosofia di molte star del cinema, da Brad Pitt a Matthew McConaughey, da Leonardo DiCaprio a Johnny Depp. Un credo ambientalista, certo, ma chi sta vicino a questi attori affirma di aver sentito più volte dell'odore non proprio gradevole. E allora, forse quello che non è chic è proprio la moda del non lavarsi quasi mai. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così, un mondo così fa cagare! Cruciani, sono agli Open di golf di Monza, accompagno quel coglione di mio cognato che è venuto dalla Sicilia per andare a vedere il suo preferito Molinari. Sono qui che mi sto rompendo i coglioni a guardare delle teste di porco che lanciano palline in silenzio. E meno male che c'è la zanzara che mi tiene compagnia. Grande, grazie, grazie, grazie. Giustamente, giustamente al golf. Pensa il cognato quando sente questa no, cosa. No, pensa il cognato quando magari stanotte diciamo riascoltiamo la zanzara, no? È tutto contento pensando di aver passato una giornata bella con... col cognato, sente questo qui che lo ringrazia così. È un brutto ambiente, veramente. Si rompono famiglie, legami, amori. È una trasmissione che veramente. Scusa, ma vogliamo tornare al servizio prima del TG4 che ho mandato? No, vogliamo tornare col darmi una notizia. Tu domani sarai a Roma, no? Quindi saremo insieme a Roma, molto bello, sì, eccetera. Ma perché vieni a Roma? Non per fare la trasmissione con me a Roma. Scatena di domani. Sì, però vieni a Roma, domani diremo perché. Beh, appunto, diremo perché. Ah, puoi dire quello che ti pare, ma tu puoi dire sempre quello che domani, ti pare. No, domani diremo sì, perché. Dire sempre mi mandate che sotto quella musichetta, per cortesia, che mi rassicura tanto. Quella musichetta. Buonasera, buonasera ancora una volta al pubblico di Porta a Porta. Il tema del giorno: i profughi. I profughi fanno bene o fanno male? Cercheremo di affrontarlo in modo molto pagato, tranquillo, una discussione serena, come nello stile di Porta a Porta. Bastardo, maledetto! Diverso, no? Diverso, totalmente diverso. Qualunque discussione, anche la più accesa, quella su Battisti, ad esempio, no? Maledetto! Sì. Immagina le discussioni che abbiamo fatto qui, ad esempio, quella sulla legittima difesa. Immaginiamo la discussione sulla legittima difesa fatta qui, sì, e la discussione fatta, datemi un attimo la musica per cortesia, datemi un attimo. Buonasera. Il tema di questa sera, dopo il telegiornale di mezzasera del TG1, ovviamente sarà: sparare è legittimo e fino a che punto è giusto farlo? Ne discuteremo con i nostri ospiti. Tra gli altri sarà con noi il giornalista del gruppo del Sole 24 Ore Confindustria, Giuseppe Cruciani. Tutto assume un tono diverso. Veramente un coglione. Comunque, andiamo avanti. Comunque, ragazzi, questi del Messaggero che mi mettono tra Westwood, sì, attori vari, per carità, non me ne frega assolutamente nulla. Dicono che io sono tra quelli che non usa mai il sapone. In realtà non è che sia proprio così. Ogni tanto lo uso. Chiedilo a chi ti sta vicino. Mi dà fastidio. Io non puzzo, ragazzi. La realtà è che non puzzo. Sfido chiunque a provare il contrario. Non puoi dirtelo da solo. Bisognerebbe chiederlo a quella santa donna della tua fidanzata, alle persone che ti stanno vicino. Bisognerebbe chiederlo a Barisoni. Bisogna chiederlo a Barisoni, che è lì. Io ogni tanto ho problemi di flatulenza. Quello sì, la famosa flatulenza, di cui abbiamo già parlato. La flatulenza, ogni tanto sì, scoreggio, ragazzi, c'è poco da fare, è così. Gino da Napoli, vai Gino. Pronto? Dimmi Gino, dimmi. Ciao Gino. No, come ciao Gino, sei tu Gino, e sei scemo? Oh. Ciao, senti. Dimmi Gino, dimmi. No, stavo un po' distratto. Senti, io ho chiamato per dire, riguardo a quella faccenda dell'avvocato che all'ennesimo episodio di quello che ha sparato. Sì, sì. Allora? Praticamente sempre le solite polemiche. Le solite polemiche, sì, però a noi piacciono le solite polemiche. Come dire, anche il tormentone, no? Il tormentone piace moltissimo. Ma c'è poco da fare, cioè uno ti entra in casa. Se tu sei armato, che puoi fare? Ti puoi solo difendere, non sai né che cosa vuole fare. Nel momento in cui uno entra in casa, può succedere di tutto. Siamo in uno stato di guerra. Questo assolutamente, bravo Gino, bravo, bravissimo. In uno stato di guerra. Tu sei autorizzato. Quindi in guerra, io le consiglio di mettere le mine antiuomo in salotto. Le consiglio delle mine antiuomo. Ma in salotto, delle piccole, le sotterri sotto il parquet, sotto i suoi tappeti, metta delle piccole cluster bomb, così magari quando il nipotino gli dice nonno ciao ci mette la mano sopra era contro i ladri, contrario a ogni uso di armi in guerra, eccetera, però il problema è che quando uno ti entra in casa quello è una dichiarazione di guerra, qualcosa a te e tu non sai cosa ti fa. Molto bene, andiamo nella direzione giusta, poi? Andiamo in quale direzione? Cosa dici? Non c'è niente da discutere. Sì, non c'è niente da risolvere. Cosa faresti tu? Sì, cosa faresti? Cosa faresti? E poi di più. Io premetto che non sono armato, non ho una pistola in casa. Però, secondo me quello ci sarebbe da fare. Cioè, avere una pistola in casa, anche un mitra, volendo. Sì, anche, ma perché di più, anche di un più. Mitra, sì, anche un mitra. Anche un mitra, ma sì. Perché non un bazooka, dire, ad esempio? Voglio dire, la migliore arma per difendersi al meglio. Qual è? Ah, il mitra, certo. Dici, il mitra dici. No, la migliore. La non migliore lo so, che uno perché uno un Uzi. Può essere anche il perché cannone. Non un Uzi. Ma un cannoncino, ma naturalmente Uzi, perché non un Uzi? Ha ragione Gino. Assolutamente. Che poi Marco è armato, ovviamente, quindi viene caricato ad armarsi. Cioè, capito? Certo, che assolutamente. Marco da Parma. Vai. Buonasera. Dimmi Marco. Allora, io volevo intervenire riguardo al fatto delle attrici che si sono concesse. Sì, abbiamo perso questo slancio dalla vicenda di Asia Argento. Sì, stasera, peraltro, Asia Argento parlerà in diretta, sì, parlerà televisiva dalla quindi. Signora Berlinguer. Sì. Ma quindi, io per lo più volevo un attimo. Ma quindi un cazzo, darà la sua versione dei fatti, Marco. No, io per lo più volevo un attimo girare il fatto che c'è anche un attore maschio che non con quel regista. Però gli è successo che era con la moglie in uno studio con, adesso non ricordo, un produttore o un regista, e a un certo punto questo qui è andato a toccargli il produttore o il direttore, adesso non mi ricordo se è un regista o un produttore. Ci vuoi raccontare l'episodio? Dove l'hai letto questo qua? Dove l'hai preso questa cosa? È un'intervista che ha fatto Terry Crews. Vabbè, in America, no? Questo è un ammasso di muscoli alto 1,91 m. Si è ritrovato con questo qui che gli è andato a togliere, a toccare i gioielli di famiglia, ma non in maniera amichevole, proprio per. Cosa vuoi dire? È che lui non ha reagito, ha buttato giù il rospo. Allora? E quindi, com'è possibile che lo fa una persona del genere? E non dovrebbe farlo un'attrice. Cioè, io capisco che sono situazioni diverse. Perché stai paragonando delle situazioni diverse? Non proprio perché. Vabbè, ciao Alberto, mi hai rotto i coglioni. Alberto della provincia di Torino, mi sono scassato il cazzo. Dai, Alberto, vai. Ciao Cruciani. Dimmi, Alberto, dimmi. Ascolta, io mi rilascio un attimo a quello che ha detto questo ragazzo. Male. Perché forse lui non l'ha provato. Ma non lo so cosa voleva dire, non ho capito niente. Dai, su, Alberto. Comunque, sta storia qua capita anche agli attori maschi. Perché. Se tu vai in quello che è considerato l'apice della cultura italiana. Ma certo che capita agli attori maschi, perché ci sono i produttori omosessuali o i potenti omosessuali. Non mi state raccontando delle ovvietà. Cioè, qual è il punto? È chiaro che capita pure agli uomini, non è che capita solo alle donne, alle attrici, capita anche agli uomini quando incontrano persone potenti che vogliono fare sesso e magari in cambio di qualcosa omosessuali. Ma l'ovvietà è che c'è chi cede e chi non cede. Alla fine. Alberto, ma perché non mi stai dicendo una cosa nuova? Mi stai dicendo che la cosa normale è quella di rifiutare queste cose qui. Se uno le accetta. E non è messo con la pistola alla tempia, perché non è obbligatorio fare l'attore. Puoi fare il piastrellista, puoi fare il sputare ancora sul microfono. Che vuoi fare? C'è tutta la puntata che sputa sul microfono. Studiato anni, hai lavorato anni, magari ti arriva un lavoro di 2 mesi, che in questo mondo è tantissimo. Lavorare 2 mesi per un attore. E magari arriva quello che si concede e si frega il lavoro. È tutta Ho la capito, infatti bisogna che le persone che non hanno mai dato nulla in cambio di sessuale si coalizzino contro questi altri che invece, anche se, devo dirti la verità, sono d'accordo con Lore del Santo quando dice, ragazzi, è giusto darla, Sgarbi, che c'è? Vittorio, aspetta un attimo, Vittorio dimmi. Tu. Era Vittorio, vi richiamate Sgarbi un attimo, non lo so, vuole intervenire Sgarbi. Alberto, ciao, chi è? Giuseppe? No, Marco da Bergamo, vai. Sì, ciao Luciani. Dimmi. Io volevo raccontarti una vicenda che mi è accaduta esattamente il 29 settembre. Sì. Praticamente erano le 3:20 del mattino. Aspetta un attimo, Vittorio, dimmi. No, volevo dirti, ti vorrei fare i casi divertenti, perché tu lo sappia, di Alain Delon e Helmut Berger. Aspetta, si sente, aspetta, ti richiamo io, che sennò si sente male. Sì. Si sente male, ti richiamo io. Allora, Marco, dimmi. Sì, erano le 3:20 del mattino, mi è suonato l'antifurto in casa. Io praticamente non ho una sirena esterna, quindi non fa nessun casino. Ho preso la mia bella mazza da baseball, nel mentre uscivo questi coglioni mi devono aver sentito. Uno aveva già scavalcato, l'altro gli ho tirato una mazza e gli ho aperto leggermente la testa, anche perché il vicino poi ha trovato del sangue. La cosa che mi fa girare più i coglioni a me è che questa gente è tutta gente che durante il giorno non fa un cazzo. Ma io non ho capito, hai ferito un ladro con questa mazza da baseball alla fine? Sì, alla fine sì, perché dopo avendo scavalcato... Ce l'hai colpito con una mazza da baseball? Lanciata perché era troppo distante, lo devo aver preso in testa. Ma stai attento che qualcuno ti potrebbe denunciare. Aspetta un attimo, Vittorio, aspetta. No, Marco. Dicevo, studierei con attenzione due casi. Sì. Alain Delon, sì, e Helmut Berger. Sì. Che per, sì, fare i loro meravigliosi film furono dichiaratamente amanti di Luchino Visconti. Allora, non rompano più il cazzo queste attrici, le quali hanno accettato lo scambio tra la loro attività sessuale. D'altra parte, un uomo può essere pure uno stupratore come questo, ma una cosa è lo stupro, una cosa è l'avanzata. L'uomo propone, certo, e avanza, certo, la donna può tirarsi indietro, può uscire di casa e può andarsene. Se sta lì, non rompa i coglioni. No, e soprattutto... questo vale anche per il caso di quell'altro Lazzarini, è uscito oggi, ho parlato, sì, con Fabrizio, sì, Lombardo, viene una che è ospite in casa, c'è un solo letto, questi, non è vero, Lombardo ha negato, ma sarebbe interessante chiamarlo, dice, vuoi dormire qui? Dice, no, grazie, va sul divano. Fine, ma la proposta posso farla? Ma certo! Posso fare una proposta a una donna? Non rompano i coglioni! Alain Delon ha accettato di essere l'amante di Luchino Visconti senza essere omosessuale. Helmut Berger ha accettato di essere l'amante di Luchino Visconti senza essere omosessuale. Ma certo, ma ragazzi, il problema Sofia è... Sofia Loren, sì, ha accettato di essere, sì, la moglie, poi anche la moglie, di Ponti, sì, che non era, diciamo... madone, no, allora, certo, non è che, certo, dobbiamo stare a discutere, certo, adesso, no, per, no, questo qui, questa faccia da porco, questo maiale ha fatto delle proposte, potevano rifiutarle dicendo non voglio stare con te, e questo qua avrebbe, come è capitato nel caso raccontato da Morgan, dopo, sì, avrebbe preso la porta in faccia quando lei rifiutava di vederlo. Non, sì, è che adesso andiamo avanti con il giallo di chi è questo, di chi è, no, ma la cosa è incredibile, è un'altra, te la dico tutta, quelle che invece non si sono rifiutate dovrebbero fare causa a quelle che l'hanno data ai produttori e ai registi, questo è il punto prima. Fondamentale, ma questo è fondamentale perché c'è gente che magari è stata penalizzata dal fatto che varie persone, Gwyneth Paltrow o altre persone che si sono adesso ribellate, hanno, ragazzi, è molto semplice la cosa, c'è stato uno scambio, hai accettato lo scambio perché per anni, se avessi pensato che questo qua era un porco maledetto, è uno da mandare a rogo, lo avresti denunciato, ma lo scambio è stato accettato da tutti, allora ma andate a fare in culo di tutto tranne che dello scandalo, però. Maschile, sì, il caso maschile, no, molto interessante, perché Alain Delon non era omosessuale, eppure ha avuto una relazione dichiarata, sì, con Visconti, certo. Per la relazione, certo, forse, voglio dire, uno si fa anche piacere una cosa che magari non ha mai fatto, però è la misura di una, come dire, consuetudine, che è quella del rapporto. E cosa facciamo con Tinto Brass? L'avete chiamato Tinto Brass? Tinto Brass e tutte quelle poco ragazze che tutte naturalmente spontanee, eh? Oppure no, no, lui ha fatto la proposta a partire da Claudia Cole, oggi santa, e loro si sono rifiutate o hanno accettato. Cominciamo a indagare sul caso Tinto Brass e smettiamo di rompere i coglioni, soprattutto Pavento, con quelle cretinate senza senso. Asia Argento ha raccontato una storia, no, incredibile, che è quella per dire oggi io sono ma merita eroina, rispetto, doveva merita rispetto, ma che rispetto, merita rispetto, sì, rispetto. Non ma puoi dire tu quando una deve parlare pronta, e se una donna è pronta, ma... a baciare un cane, questo poveretto almeno un uomo, oppure ma cosa c'entra, partito, ma quello era una provocazione di un film, una scena, a baciare un cane, ma cosa c'entra, te lo fai piacere. No, ragazzi, è incredibile. Ma io non ho capito. Voi state parlando di tutto tranne che dello scandalo. E ma lo quale scandalo? Scandalo? È non c'è lo scandalo. Oggi lo uno scandalo. Sceneggiatore famoso Hollywood ha detto tutti sapevano e ipocriti. Hollywood non è Dio. Ma che vuol non dire è la che Bibbia. Tutti sapevano. Sono tutti ipocriti. Ipocriti. Ipocriti. Sapevano tutto che questo qua scopava e lo accettavano tutti. Che cazzo ne sai perché questo è stato cacciato dalla famiglia? Che ne sai? Questo qua ci sono giochi di potere. Questo qua alla fine è il meno colpevole di tutti. Giochi più colpevoli sono quelli che l'hanno coperto e quelle che non hanno parlato per anni. Vergognati, vergognati. Siete incredibili, siete incredibili. Diglielo tu, Vittorio, diglielo tu. Siete incredibili. Provate a chiamare Sandra Milo per parlare di Fellini. Provate, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, Monica Vitti, poverina, sta male, per parlare di Antonioni. E non ce n'è una che non sia andata a letto con regista o con produttore. Ma sentite, ragazzi, non c'è niente da discutere. Le molestie sessuali sono un reato, come lo è lo stupro. Avete capito? Ma il pentito, le molestie sessuali, ma non c'è. Poteva uscire. Le molestie sessuali sono un reato, come lo è lo stupro. Hai fatto delle avance. Non si scopre, non è che te la dà a priori, gliela chiedi e lei può dire di no. Gliel'hai chiesto o no? Come fai a scopare tu, cazzo di un parezzo? Come scopi? Gliela chiedi? Troppo. Chiedere è già imporre. No, ma cosa dite? Chiedi. Ma sì, ha ragione. Ma cosa dite? Ma cosa dite? Ma cosa dite? Io ti ho visto a casa di quella puttana brasiliana famosa. C'eri a casa di quel ragazzo brasiliano. E cosa facevi? Cosa facevi? Ma chi è questa? Ma quale puttana brasiliana? Ma di cosa c'è, parla? C'è la puttana brasiliana, cosa ricordi dice? Bene, a Milano, eri a casa Milano. Di una puttana brasiliana, quella che incastrò diversi calciatori. Questo. Allora, come facevi a muoversi anche con le ragazze? Sì, quella lì, proprio quella lì. Sì, ma gliela devi chiedere, lui dice, comunque la proposta gliela devi fare a qualcuna, no? Adesso pure questo si è fatto trovare nudo. Cosa c'entra? Quell'altra cosa... La tua della, come cazzo si chiama? Sargento, sì. È ridicola perché lei fa del manierismo. Cioè lei fa la vittima dopo 20 anni. Ma per però scusami Vittorio, oggi, ma avrà diritto nessuno, avrà diritto dopo 20 anni di dopo 20 anni perché non gliela doveva dare, doveva ma dare. Non so se era una balla perché ma tutti coglioni. Gli altri, ma tutte le altre, scusami, quelle tutte le altre data, ma le altre si sono accodate, tutte dopo. Le altre si sono inventate tutto, è un grande complotto. No, chi ha detto? Ma che complotto? Ma assolutamente certo che lui no. Faceva pressione, la pressione che faceva Visconti uguale, cominciamo a mettere sotto processo Visconti. Ragazzi, però voi avete questa grande capacità di spostare l'argomento, di spostare il tema. Ma non c'è nessuno. Secondo queste donne, ragazzi, la cosa secondo queste donne c'è stata una molestia. Ma che cosa vuoi, cambiare? No. Il senso del potere? Il potere ogni tanto si esprime in questo modo. Il potere dei produttori è sempre stato così. Qualcuno fa delle proposte, se tu non ci vuoi stare, non ci stai. Nessuno è stata costretta, nessuno è stato obbligata, non c'è violenza sessuale, non c'è molestia. C'è uno che, tra l'altro, poi la sergento racconta un'altra cosa. Abbiamo detto ieri, caro Sgarbi, caro Vittorio, la cosa è questa: a un certo punto dice c'è un regista italiano, senza fare nomi come al solito, senza certo, fare nomi, sempre, che entro dentro la roulotte là per parlare, o dentro il camper, non so dove, per parlare della parte. E questo qua a un certo punto tira fuori l'uccello, fa il nome, tira fuori il nome, abbia il coraggio di tirare fuori il nome. Comunque, vabbè, come che voi nome. Siete dentro il tema, non so come sia, forse sta male. Chiamate Tinto Brass. Tinto Brass, questa cosa qua l'ha fatta Tinto Brass, come metodo. Sì, parla poco. No, ma Tinto Brass l'ha ma Tinto Brass l'ha dichiarato. Tinto Brass lo faceva davanti alle telecamere, lo ha dichiarato. Beh, Tinto dopo, Brass, c'è una famosissima intervista. Dietro, no, Gaspar, cosa cambia? Tinto mettetelo Brass, sotto processo, mettetelo no, sotto processo. Ma non hai capito molestie, la differenza? Stupro, Tinto, eccetera, ma no, dai, Tinto caccia... Brass ci ha fatto anche un film sui suoi provini, certo. Che si chiama Block Notes, conosco perfettamente. Cioè il maestro Tinto Brass. Gli amicamente come questo Weinstein. No, addirittura no, con la tinta che era la moglie, perché quello è un con porco. La tinta, perché quello ma scusami porco, c'è una differenza, no, la spiegami. Tinta quella che lui, io sono Tinto Brass, so tutto perché lo conosco da 20 anni, siamo molto allora? Amici eccetera. Vi racconto questo, lui chiamava la moglie la tinta, la vecchia porca, e sosteneva addirittura che la moglie si divertisse quando lui faceva i suoi provini, in cui nel suo ufficio si metteva il sigaro in bocca, si metteva in poltrona, piazzava la telecamera e faceva fare alle aspiranti attrici la famosa prova della monetina, che ora, siccome io sono una persona educata, non spiegherò nel dettaglio in che cosa si esplica la prova della monetina. Sostanzialmente faceva tirare giù le mutandine alle attrici, lui era sempre col sigaro in bocca e loro sulla telecamera. Spontaneamente, no? Loro e loro si dovevano piegare, e loro si dovevano lo raccogliere. Spontaneamente, no, lo davanti a una telecamera lo facevano, era tutto dichiarato, non c'è molestia, andavano loro... No, è ma la scusami, stessa cosa, è la no, stessa cosa. Ti sto una spiegando donna, che secondo te ha la dignità di fare la monetina davanti alla telecamera, se non lo fa come ricatto, altrimenti non lavora. È no, ma scusami, scusami, se lo faccia davanti scusa, o dietro, scusa, non lo fai. Scusa. Se una pensa di andare come il caso di Stefano. Tua moglie ma per lo carità farebbe? Di Dio, ma allora, lascia stare, allora, evidente di no, ma fa, parliamo di persone per bene, ovviamente, non c'entra niente, non fa quel ma non fa quel mestiere lì, fa un altro mestiere, no, non lo so. Ma se una per lavorare, però scusami, il caso è diverso, perché Tinto Brass è un regista, è il maestro dell'erotismo, quindi non è che fa, fa il maestro, certo. Ho capito, ma che ma Weinstein faceva il film Shakespeare in Love, che c'entra? Ma che c'entra? Quello è un regista erotico, se vai da lui non pensi di fare altri mestieri. Seguite la pista omosessuale. Seguite la pista omosessuale. Ciao Vittorio, ciao. Seguite quella, ciao. Ciao, ciao. La Zanzara. Crociani, il mio ragazzo in vacanza invece di scoparmi ascolta i podcast della Zanzara. Ha i miei orgasmi sulla coscienza, sappi. La Zanzara. Lo dovevo fare, lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani. Ho strappato l'Inps oggi, ho strappato l'Inps. You are not an open book. I can't do nothing about that. Io ti metto questa cosa ogni tanto per ricordarti. No, ma... no, no, ma guarda, è davvero, è come fare della yoga per me questo, è come andare a yoga, perché è incredibile. Poi più lo ascolto, più trovo delle cose che mi mandano i matti. Ho dovuto farlo. Ho dovuto farlo. Gli italiani. Capito? Gli italiani. Ho dovuto farlo, ho dovuto, come fosse un gesto clamoroso. La marcia del sale di Gandhi, capito? La marcia del sale di Gandhi contro il dominio degli inglesi. Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Ma che è? Lei contro gli inglesi? Ho stappato l'Inps. La marcia del sale di Gandhi. Ma vaffanculo. Ma dai. Ma chi? Ma chi? In generale, così. In generale, tanto fa male a nessuno, no? Lo dovevo fare. Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani. Ma poi è anche concitata. È una pazza, dai ragazzi. Sono una povera pazza. Ti fa andare ai matti, lo so. No, mi fa impazzire totalmente. Non mi dà tregua la notte. Non mi dà tregua, te lo giuro. Non mi dà tregua. Cosa devo fare? Mi innervosisce. Mi innervosisce. Basta, no, mi fa innervosire. Lo dovevo fare. Lo dovevo fare. Dai. Marco da Bergamo ci stava raccontando prima dell'intervento molto accalorato di Vittorio Sgarbi, che aveva perfettamente ragione al 100% su tutto, in questa cosa al 150% su tutto. Ma non dire stupidaggini. 150% su tutto, ragazzi, avete rotto il cazzo. Tu, le femministe, questi che dicono scandalo, le fanno gli hashtag, com'è quell'hashtag là? Dillo anche di. Ma che cazzo confessi 20 anni dopo? Dillo anche tu di quando sono stata molestata. Ma vaffanculo, vai subito in tribunale a rompere i coglioni, no? Invece di stare 10 anni dopo, Dio, sono stata molestata. Adesso c'è tutta la corsa a confessare le molestie, a raccontare le molestie presunte, ovviamente, non tutte certe. Andate a fare in culo o andate subito dal magistrato, oppure non ci rompete il cazzo con presunte molestie. Quello presunto. Mi ha toccato di lì. Cosa quell'altro fai tu ci a dire ha provato presunto? Come quello fai ha fatto tu a dire presunte? Devono essere dimostrate, non è che hanno ragione sicuramente loro. Avete rotto i coglioni, avete rotto i coglioni con queste presunte molestie, con queste confessioni a scoppio ritardato. O andate subito dal magistrato, non siete in una situazione di schiavitù, siete persone ricche, famose, avete tutto. Ma cosa c'entra? Non rompete il cazzo, punto e basta. Marco, allora, sai che dai. Non c'entra niente? No, c'entra, come no? C'entra. Marco, dimmi. Sì, per chiudere il discorso di prima, per dirtela alla fine, io che vivo nella mia villetta e ho speso soldi per fare la mia muraglia, ho messo un cancello, ho messo un citofono. Se tu non mi suoni al citofono, non siamo in America che hanno il giardino che guarda sulla strada. Beh, e allora lì se tu vai sulla loro proprietà spari. Se tu entri in casa mia senza suonare il mio citofono, io devo essere pronto a tutto, soprattutto a 3:30 di notte. Cosa cazzo ci fai tu in casa mia? E poi anche se mi suoni quel bel cazzo. Vabbè, ma tu che cosa hai fatto, scusa, alla fine? Come hai reagito? Niente. Io gli ho lanciato una mazza da baseball al volo perché ce l'avevo in mano. Questi aveva avuto fortuna, gli lanciavi una mazza da baseball, quella se era gente seria te veniva là dentro e ti ammazzava. Ma non mi interessa un cazzo, io ho dei figli in casa. Se io non ti apro le porte di casa mia, tu non devi venire a casa mia. Perciò quando io sento quel napoletano che dice che vuole vendetta, ma di che cazzo di vendetta vuoi? Vabbè, quello gli hanno ammazzato il fratello e dice che vuole la punizione per chi l'ha ammazzato. Un napoletano, vabbè, un napoletano che tra l'altro adesso che siamo sotto anche al referendum per l'indipendenza, io non farei il referendum per l'indipendenza della Lombardia e del Veneto. Non è l'indipendenza. Farei un referendum, un referendum per abolire la Campania dall'Italia. Vabbè, adesso perché quella lì non è Italia, sono sporchi, vivono in mezzo alla merda. È da tempo che non lo sentivo queste cose, e sono sporchi. È da tempo, ma guarda che io ci sono stato. Aspetta, sono fermola, stato... fermola, perché questo è interessante, fermo. Adesso la botta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Quando io sento quel napoletano che dice che vuole vendetta, ma di che cazzo di vendetta vuoi? Un napoletano che tra l'altro adesso che siamo sotto anche al referendum per l'indipendenza, io non farei il referendum per l'indipendenza della Lombardia e del Veneto, farei un referendum per abolire la Campania dall'Italia, perché quella lì non è Italia, sono sporchi, vivono in mezzo alla merda. Oh, eravamo con Marco da Bergamo, era da un po' di tempo che non sentivo queste parole che riaccendono la grande divisione di un tempo, quella tra terroni e nordici, caro Parenzo, no? Sì, sì, Marco, allora, secondo te c'è una differenza? Non mettermi parole in bocca, parole in bocca. Dico tu, hai detto che sono... parlato di terroni e nordici. È la cosa, ti assicuro, è la cosa, sarebbe stata la cosa più leggera. Non ho parlato di terroni, perché credi, Hai detto napoletani, scusa, hai detto napoletani. Io ho girato l'Italia da nord a sud, ma una cosa schifosa come la campagna non l'ho mai vista. Ma perché? Cosa c'è di schifoso nella campagna? Ma me lo chiedi anche. Cioè, no, ma dimmelo. Io ricorderò sempre la pila di gomme di automobili che bruciavano in parte alla strada. Sporco. Si bruciano lo sporco, e in più in questi giorni ho anche sentito che, non so, un gestore di un albergo napoletano di Caserta è riuscito a farsi dare un rimborso perché da loro non funziona la raccolta differenziata dell'immondizia. Siamo solo noi i coglioni che dobbiamo stare attenti alla plastichina, all'altra cosa, e la carta, e attenzione se c'è un po' di plastica. Questi qua vivono nella merda, ma sai che io... Cancelleresti la Campania? No. No, la staccheresti. La renderai indipendente. Indipendente. Ma cos'è che ti fa orrore dei napoletani? Spiegami. Mi fanno schifo. Ti fanno schifo, cioè. Ti fanno schifo. Puzzano, questa cosa che puzzano. Farei uno stato a parte. Ma puzzano, che vuol dire? Che si arrangino loro, che si governino loro, che si autofinanzino loro. Magari gli prenderei anche un po' di migranti e li farei gestire a loro. Ah, ecco, mancavano queste. Cioè, Parenzo, non mi sembri una persona stupida e ho molto rispetto anche di lei. Io non potrei dire la stessa cosa. Perché puzzano? Restare sulla puzza. Perché come te sono. Ma perché puzzano i napoletani, i campani? Perché puzzano? Ma allora, basta guardarli. Basta guardarli. Cioè, per te c'è proprio una razza campana, una razza napoletana, c'è un'etnia particolare che trasuda puzza, dici tu, o no? Ma a parte, mi fanno schifo veramente, sia come ragionano. Questo si era capito, diciamo. Non mi piacciono, cazzo. Non riesco a digerirli. Cioè, hai figli tu? Hai figli o no? Come? Hai figli? Io sì, due figlie. Se si mettessero con uno di Napoli, che cosa accadrebbe nella tua vita? Ah, mi sa che lì sono veramente dei cazzi amari. Amarissimi, diciamo. Hai figlie, maschio o femmina? Un maschio e una femmina. Maschio e una femmina, vabbè. Questa trasmissione è bella perché non si fanno mai generalizzazioni, cioè non c'è mai, capito? È sempre tutto questo molto... è venuto fuori così, con spontaneo, questo Marco da Bergamo. Sì, no, appunto, dico, è una trasmissione in cui non si fanno generalizzazioni, tutti i rom rubano, i meridionali sono tutti ladri, non si fanno mai. No, sei dell'intellettuale della Magna Grecia. Non sono tutti ladri. Però i campani ti fanno schifo. Da dove chiama lei esattamente? Ti fanno schifo. Ma sono, secondo te, tutti un po' ladri, tutti un po' furfanti, tutti un po'... Ma c'è bisogno che te lo dico io? No, ma dimmelo, sì. Non lo so, chiediamo. Non è così scontato la cosa. Cioè, secondo te, alla fine sono tutti dei grandi truffatori, questo è il punto. È proprio la patria lì. La patria della truffa, sì. Dai, adesso. Beh, no, ma io non dico niente, per carità. Cioè, io però non sentivo queste cose, per questo sei abbastanza prezioso. Perché non sentivo queste cose qui da anni. Non sentivo. Sì, credimi, tu che hai detto che io sono del nord. Io non sono per l'indipendenza della Lombardia, del Veneto. Ecco, io in queste cose non ci credo. Ma sei però per la separazione della Campania. Quella non è Italia. Cioè, non praticamente tu, sostanzialmente, napoletani devono morire tutti, questo è il punto. No, la morte, scusami. Io non voglio spendere un euro di quelle che sono le tasse che pago. Per i napoletani? Cioè, adesso... forse dicendo qualcosa di sbagliato? No, ma per carità, da sei anni sentiamo certe bestialità, figuriamoci. Cioè, per lui è normale dire queste cose, capito? Ma tu ti rendi conto di quante bestialità spari? La cosa incredibile di questa trasmissione è che qui risultano normali cose che in altri conto di quante bestialità spari in una sera? Ma tu ti rendi conto? Ma beh, anche sì, solo questo è importante, il discorso su Asia Argento, ma anche solo il discorso su Asia Argento. Perché che cosa è? Sentiamo, diamo un giudizio definitivo anche lì, forza. Sentiamo. Mi sembra al giorno d'oggi cadano tutti così. No, ma dimmi, qual è il tuo giudizio su Asia Argento? Dai un giudizio rapido, trashan, una stilettata. Allora, se l'ha fatto, ha fatto bene. Cioè, si è scopato. Cosa? La vita è la sua, ha scelto di fare così. Tu non puoi venire dopo 20 anni a fare polemica. Questo devo dire che è lucido. Per tornare sulla su cresta dell'onda, perché un po' che sei sparita. Ok? Ha detto la stessa cosa, Sgarbi. Ciao, amico mio, ciao Marco, ciao, ciao, ciao. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Grande ritorno, Nike Rivelli con noi, eccola qui. Buonasera, buonasera. Io sono in Campania, in questo posto che ti hanno appena giudicato malissimo. Mamma mia, hai visto che cosa tremenda. Allora, io voglio dire una cosa, cara Nike Rivelli. L'ultima volta ci siamo lasciati con lo spazzolino elettrico, è stato favoloso, è stato molto bello. Perché lei si fa sempre, io voglio chiedere una cosa alla signora Rivelli, perché si fa sempre queste foto nuda praticamente? Ma come le deve fare? No, non è nuda, mai nuda, chiedo. Mai totalmente nuda. Mai nuda, infatti. Mai totalmente sono nuda. Sono perché sono un po' nudista a casa, mi spoglio spesso e quindi... Beh, ma perché questo bisogno di, come dire, no? Per fare la foto sarebbe stupido. Ma è esibizionista, anche lei ha un tocco di esibizionismo. Ecco, questo non vogliamo capire, strano. Questo bisogno di fotografarsi anche in posizioni, come dire, un po' ammiccanti, no? Alle volte, chiedo. Molto ammiccanti. Cioè. Allora, chiedo, esibizionista sicuramente, però nel mio esibizionismo cerco spesso di dare un messaggio tra il mio... da una chiappa a un'altra, sai? Ma sì, certo, ogni tanto, ogni tanto. E non sono fermati solo sul bouche de cul, capisci? Come, scusa? Comunque, com'era l'ultima? Com'era l'ultima? Invece di soffermarti solo sul bouche de cul, tu andassi anche a leggere quello che ho scritto sotto, forse ti si aprirebbero anche bravo. Diciamo, scusami, diciamo Nike, che allora la didascalia è un accessorio rispetto alle foto che lei solitamente pubblica, signora. Ma non però, per vabbè. Tutti, non per tutti. No, certo. Io sono d'accordo con lei. È soggettivo, c'è chi ci si fa le pippe, chi invece legge, chi impara qualcosa. Ognuno è libero di fare come... Sì, perché ci sono anche persone che si fanno le pippe su Nike invece di andare su YouPorn o andare su altri siti porno. È molto più, come dire, è sofisticato, diciamo, farsi una sega su un video o su una foto della signora Nike Rivelli. Però mi raccomando, copiare l'iPhone, perché? Insomma. Perché se si sporca è Beh sì, quello è giusto perché si possono produrre polluzioni in quel caso. Polluzioni. Allora, cara Nike, allora la questione è molto semplice. Sì. Tu perché l'abbiamo chiamata la signora Rivelli? Beh, è importante invece perché la madre, per esempio, è una che è andata in America, la madre signora Ornella Muti è andata in America più volte, forse anche lei. Insomma, come vedete voi la madre e figlia il caso Asia Argento? Come lo vedi questo caso, cara Nike? Ah, è diventato il caso Asia Argento. Caso Sargento in Italia, insomma. Beh, un po' noi parliamo anche del caso Asia Argento. Addirittura è diventato il caso Asia Argento. Beh, non mi dirai che sei dalla parte della signora Asia Argento? Io non sono dalla parte di nessuno, io non sono nessuno, come posso? Io sono un buco di culo che fa foto, non posso assolutamente giudicare gli altri. Adesso no? Un buco di culo che sono fa foto. Sono qua con mia mamma. Che dice tua madre? Ha prodotto anche la mamma, e partorito questo culo. Sì. E mia mamma è stata in America, anche lei ha annunciato gli Oscar and è ritornata in Italia dopo aver fatto delle esperienze belle, altre forse meno, ha avuto anche lei... Ho capito, ma tua madre degli avanzi, ma non ha accettato, cioè si può dire di no, cioè si può dire di no, diciamolo, caro Ornella, certo che sei lì. Si può dire di no, mamma, si può dire di no. Si deve dire di no. Assolutamente certo. E si deve dire di no. Mamma, sentiamo, si può mamma. Dire di no. Si deve dire di no. Ah, e se non si dice di no, mamma? Se per caso ma non si sente la mamma, però scusi, uno non legge, l'altro non sente. Io sento, ma non sento ci benissimo. Ci passi direttamente la mamma e facciamola finita. Aspetta, io l'ho passata perché non capite che abbiamo la stessa voce. Allora, signora Muti? Aspetta, adesso sono ancora io. C'è chi cade in queste trappole perché succede, le donne ogni tanto possono avere anche delle cadute, uno può anche non sapere quello che fa, uno può anche rimpiangere. Sì, aspetta. Può avere un momento di confusione. Questa è mia mamma che parla. Sì, sì. Signora Monti, buonasera. Buonasera. Qualcuno può avere un momento però, di cosa? Un momento di che? Può sempre dire di no, non è che uno poi deve sa fare qualcosa. cioè, siamo non... noi. D'accordo, insomma. Benissimo. Dunque... Ecco, ma alla signora Mutti chiediamo, è mai capitato di avere ricevuto sì, delle avance? Lo dico io da attori importanti americani, da produttori importanti. E ha detto di no. Stata, ragazzi, ha detto di no e non ha rotto i coglioni a nessuno. Per cui alla fine, dopo 20 anni, è una follia raccontare quelle cose, signora Mutti, o no? Guarda, questo sono di nuovo nei che ognuno fa quello che vuole, penso che sia inutile, non serve a niente. Cioè, poteva dirlo prima, allora, forse avrebbe, essendo una donna così forte come sembra Asia, io avrei pensato che sarebbe stata subito pronta a denunciare una roba del genere. A questo punto forse aveva lasciato stare, ma ognuno... È una cosa un po' paracula, dici, adesso, o no? No, questo non lo so. Forse si vuole costruire un po' una figura da eroina, come dice Sgarbi, no? Non lo so. Penso che sicuramente forse vorrebbe ritirarsi indietro, non averlo detto dopo tutto questo scempio intorno a questo. Ma non mi pare, stasera va in televisione a fare su Rai 3 fra poco a raccontare tutta la sua storia, figuriamoci se non vuole. Allora aspetta, devo correre a vedere. No, ancora c'è tempo, alle nove e mezza. Io voglio capire una cosa, ma a te invece fanno proposte? Fanno proposte sessuali, che ne so, per fare qualche... Ma a tutti fanno proposte sessuali. Ma no, proposte sessuali per avere un lavoro, per avere un lavoro. Ma in tutti i campi lavorativi fanno proposte sessuali, no? Certo, no, ma io te lo domando. Ma dipende, ma non è vero, non deve neanche passare questo principio qui, perché non è assolutamente vero. Ma nei giornali, ma vi scordate quello che avviene nei giornali, direttori, capi redattori? Ma nei giornali è un inferno, dai, su. Sta sempre da una parte... qualcosa, non è per forza, però può succedere, non è che succede solo nel mondo dello spettacolo, succede un po' da tutte le parti, penso io. Ho sentito amiche mie che lavorano, forse, io so, dall'estetista, che hanno lo stesso problema, o altre persone che lavorano. Quello è peggio ancora, infatti. Però scusa, è peggio ancora. Ma secondo te è legittimo scopare per avere una parte o per avere un lavoro, eccetera? Cioè, le condanni? Amore, io penso questo, che ognuno è libero di fare quello che vuole se sta bene con se stesso. Penso che sia forse più onesto dire le cose come stanno. A me non mi piace la bugia, non mi piace l'ipocrisia. Non mi piace vedere due persone che si abbracciano e sembrano, capito, migliori amici, e poi vedo che il giorno dopo si accusano di violenze sessuali. Non mi piace questo. Dunque, non ti piace quella foto lì con Weinstein e con Asia Argento che si... c'è solo Asia Argento, perché ce ne sono tante. Vabbè, adesso parliamo di Asia Argento perché è una cosa che ci riguarda più da vicino. Siccome invece mia mamma per me è un'attrice europea, e quindi ce ne sono tante. Per esempio Ava Green pare che sia un'altra che ha avuto lo stesso problema e lo disse a tutti ai tempi, e nessuno se l'è cagata di testa. Senti, quindi... dunque tua madre mi sembra che giudica in maniera negativa la signora Sargento, giusto Ornella? Ma mia madre non giudica negativa la signora Sargento, mamma non la giudica proprio. Non gliene frega niente. Non gliene frega niente. Io trovo che sia abbastanza triste tutto questo. Cosa fate stasera, madre e figlia adorate? Come passate la serata? No, ma così per interrompere. Ma guarda, Niche Rivelli e Ornella Muti, ma non fate, non si fa più delle foto. Che dobbiamo chiudere, però io ti voglio chiedere una cosa. Ho visto una foto. Quelli che disprezzano le foto vuol dire che apprezzano o rosicano, no, perché no, se non no disprezzo le foto. Chiedo. Scusami un attimo, ho visto ma una foto. Io mi fotografo il culo tutti i giorni, a te che te frega? No, ma infatti, no, ma chiedo perché mi pare un'attività, curiosa. Non so, ma no, ho visto una foto del tuo sedere. Mi pare un'attività curiosa. Posso dire però, scusatemi, che è un'attività curiosa fotografarsi il sedere tutti i giorni. Posso dire che è curioso, ma sto zitto. Promesso. Mamma mia, io non mi fotografo un giorno sì, un giorno no. Un tutti giorno i giorni sì. No. Scusa, a proposito di sedere, delle altre cose. Ma è così traumatico il sesso anale, secondo te? Per chi? Per te? No, per te, no, per me sì, non l'ho mai provato. Per te. Perché deve essere traumatico? Perché faccio vedere il culo? Secondo te, così traumatico? Una che fa vedere il culo lo prende in culo. No, perché ho visto una foto bello, con un corridoio, una foto col sedere tuo con una cosa sopra, una specie di corridoio, di portone là. Perché io provo che spesso per fare determinati lavori, penso che sta tutto lì. Penso che il mondo sia molto concentrato nel buco del culo, però nessuno lo dice, tutti sono così scandalizzati e non è così. Ma tu provi trauma però quando lo fai? Io? Queste sono cose che dico il mio compagno, poi è un anno che non lo faccio, quindi penso un po', io mi fotografo e basta. Un anno. Vabbè, capita. Però mi masturbo tutti i giorni, amore. Tutti i giorni. Ma che notizia è importante? Meno male che i mercati sono chiusi. Questo è importante. I vibratori pare che facciano paura agli uomini, Così ho saputo, cioè li mettono in una condizione di soggezione, dice ma come mai, perché utilizzi, invece deve essere chiaro che si gioca con i bravo, in due si gioca, in due anche da soli, tu giochi molto da sola naturalmente, purtroppo è un periodo così, ho dato non è che spero di dare, però è un modo. Anno che ti masturbi e basta, vabbè, d'accordo, sì. Tesoro, ciao, sì. Ti devo salutare, sì, vado a masturbarmi, ciao perfetto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. No.